nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. E dunque una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Nuovo ciclo di Nessun Luogo è Lontano. La squadra di quest'anno: Mira Lucchetti, Massimo Brugnoni in redazione, Roberto Scaltritti alla parte tecnica. Le coordinate per interagire con noi: la mail nessunluogo@radio24.it, gli sms per domande, commenti o suggerimenti al 349-238-6666. Siamo su Facebook, Nessun Luogo è Lontano -Radio24, e su Twitter, Nessun Luogo 24. Attualità internazionale e approfondimenti saranno il cuore del nostro programma per 5 settimane. Lo avete sentito anche dal GR, la Siria, la battaglia per Aleppo richiamano la nostra attenzione, così come il rapimento in Yemen del carabiniere italiano. Di questo noi ci occuperemo domani con una puntata speciale dedicata a Medio Oriente e a Siria, ma adesso andiamo a Londra. Londra chiama, le Olimpiadi sono in pieno svolgimento, Londra chiama gli atleti, chiama pubblico, la capitale inglese è blindata, le misure di sicurezza, lo avete sentito nei giorni scorsi, sono straordinarie. A poche decine di chilometri da Londra, dall'altra parte della Manica, a Calais, questo porto francese, migliaia di turisti salgono quotidianamente sui traghetti che sono stati intensificati nelle loro linee per raggiungere Dover, le bianche scogliere, e poi di lì appunto muoversi verso la capitale. E tra loro centinaia e centinaia di migranti, sono afghani, sono pakistani, eritrei, nigeriani, albanesi, che tentano di nascondersi nei camion e raggiungere anche loro illegalmente il Regno Unito. E del lato oscuro di Calais parliamo quest'oggi. Perché una volta Calais, questo porto francese grazioso dove si possono gustare frutti di mare deliziosi accompagnati da ottimo vino, era appunto un punto di passaggio molto turistico. Da circa 10 anni a questa parte è diventato un cancello, un imbuto in qualche modo allo stesso tempo per i tanti migranti che vogliono raggiungere il Regno Unito. E quindi le misure di sicurezza sono via via diventate più pressanti. La polizia inglese addirittura lavora nel porto di Calais, utilizza lo scanner termico sui camion a campione per individuare i migranti che si nascondono. E i migranti che fanno questa loro personale gara contro la frontiera e contro il confine per raggiungere l'Inghilterra. Noi ne parlammo 4 anni fa realizzando una serie di documentari per Radio 24, si chiamava Inshallah Europa, e parlammo di Calais. La situazione è cambiata. Se avete curiosità, poi posteremo sulla pagina Facebook Nessun Luogo Lontano - Radio 24 quella serie di reportage, così da comparare la Calais di adesso con la Calais di 4 anni fa. 4 anni fa c'era la Jungle, che era questo gigantesco accampamento realizzato dagli afghani vicino all'area portuale. C'era questa Africa House, che era una vecchia fabbrica dismessa dove eritrei e somali si erano ammassati, e poi il ministero dell'interno francese usò il pugno duro e ripulì completamente la zona, con il risultato che il fenomeno è ancora lì. Semplicemente i migranti si raggruppano, i gruppi sono più piccoli, fatti di 3, di 4, addirittura vanno a Dunkirk, che è un altro porto, altri stanno a Parigi e poi solo all'alba raggiungono Calais per cercare di infilarsi dentro i camion e raggiungere Londra. Ma perché si va a Londra? Perché la crisi economica che attanaglia l'Europa, insomma, i migranti dicono: vabbè, noi viaggiamo di paese in paese, cerchiamo le migliori opportunità. E poi il Regno Unito è il paese in Europa che concede maggiormente il diritto d'asilo, 14.000 circa l'anno. Vi sono, è vero, i migranti lavorativi e i migranti con diritto a una qualche protezione, quindi dovremmo fare i dovuti distinguo. E comunque Calais vive questa situazione periodicamente, da anni esplodono tensioni. Tensioni fra gruppi di migranti, tensioni fra i migranti e la cittadinanza, che però sembra essere impermeabile a questa presenza e a questo lato oscuro. Abbiamo incontrato Christian Salomé, presidente della locale associazione Auberge des Migrants. Sentite cosa dice. Ce qui change, c'est qu'ils ont moins d'endroits pour dormir tranquilles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de laisser leur sac de couchage, leurs valises. Quello che è cambiato, spiega Salomé, rispetto a 4 anni fa, dove c'erano dei gruppi molto numerosi e che adesso i migranti hanno i loro sacchi, i loro vestiti, i loro effetti personali, non sanno più dove metterli, perché la polizia continua a fare raid, anche notturni, per disperdere i migranti. Sentite cosa dice Yves, che è un anziano attivista francese di Calais. Egoïste et lâche, indifférente. Les autorités depuis longtemps préparent l'opinion, font une propagande pour faire peur. E così Yves, questo vecchio attivista, punta il dito contro i media francesi e contro il governo francese, che presenta, dice, i migranti come dei nemici, come pericolosi, e quindi da tempo in corso, dice, una propaganda. Migranti di tutte le nazionalità, l'abbiamo detto, migranti anche siriani. E un giorno incontro appunto un ragazzo di Damasco dall'incredibile storia burocratica, un permesso di studio scaduto, e lui che disperatamente vuole raggiungere la famiglia a Londra. John, 27, from Syria, Damascus. Actually, because it's very dangerous. Mi chiamo John, ho 27 anni e vengo dalla Siria. Da Damasco. Ho lasciato il mio paese perché è molto pericoloso almeno da un anno e mezzo a questa parte. Ogni giorno bombe, spari, urla di donne e bambini in ogni città. La polizia ricerca e cattura soprattutto uomini, che vengono messi in prigione semplicemente perché sorpresi a camminare per strada. Ti catturano anche solo perché stai aspettando l'autobus. Ti ammanettano, ti sbattono in auto coprendoti gli occhi per non farti vedere dove ti stanno portando. Dopo 2 o 3 ore ti ritrovi in una stanza, ti fanno delle domande. Perché eri in strada? Che cosa stavi facendo? Ti picchiano, ti insultano e ti urlano addosso. E magari tu non stavi facendo nulla, camminavi solo per la strada. Questo è il nostro governo. Ti accusano di essere un ribelle senza lo straccio di una prova. Mia madre e le mie sorelle sono in Inghilterra dal 1993. Vivono e lavorano là. Sono arrivato qui, in Francia, a Calais, per cercare di raggiungere la mia famiglia e vivere in un luogo sicuro. Tutto qui. Non so ancora come farò ad arrivare in Inghilterra. Sono qui da ieri. Ho già incontrato un paio di siriani e stiamo discutendo sul da farsi. Così la drammatica situazione siriana vede uno specchio fin lassù, fino a Calais, a 2 passi da Londra, quella Londra che John vorrebbe raggiungere, ma che non riesce per un intoppo incredibile, intoppo burocratico. Lui dovrebbe ritornare a Damasco a rifare un visto, ma ovviamente non ne ha nessuna intenzione. E poi a Calais ci sono delle morti misteriose, le morti misteriose dei migranti, 2 nei soli ultimi 6 mesi. L'ultima, un eritreo misteriosamente caduto in un canale 3 settimane fa. No Border, l'associazione, denuncia i metodi della polizia che caccia i migranti, che dormono nelle strade, confisca loro le coperte, a volte anche gli effetti personali. Quello che avete sentito era la vivace protesta, il sit-in davanti alla polizia. La polizia di Calais che dava informazioni frammentarie, prima aveva detto che il migrante aveva rubato dei telefonini, poi è risultato non vero, poi hanno detto che è misteriosamente caduto da solo nel canale. Insomma, si dovrà far luce su questa e le altre morti misteriosi. Una cosa è certa, Calais vive una situazione drammatica e tesa per la presenza più o meno corposa nel corso degli anni di questi migranti, ma che l'amministrazione locale dovrà farsi carico e dovrà risolvere. Calais è una porta verso l'Inghilterra. Questo è quello che accade a pochi chilometri dalla festa olimpica, ma noi alcuni mesi fa siamo stati nella porta d'Europa. E siamo sulle sponde del fiume Evros, lungo il confine tra Grecia e Turchia. Quello che sentite è il canto del muezzin che arriva appunto dalla vicina Turchia. Il paese dista 50 metri e ci separa solo un fiume. Siamo in una zona militare, l'accesso è vietato, ci siamo nascosti la notte e stiamo attendendo l'alba, nascosti appunto nel fogliame, e improvvisamente un gruppo di algerini esce fuori, sbuca dal fogliame, lascia il canotto che le va traghettati dalla Turchia fino in Europa e ci racconta il primo tentativo di traversata durante il quale la polizia turca ha sparato, uccidendo il trafficante e ferendo uno di loro. Ah, bah, ouais, il est mort. Il è morto il y a maintenant 25 jours à 27 jours. On a La gente è morto. È accaduto 25 giorni fa. L'hanno ucciso. Ma grazie a Dio ce l'abbiamo fatta stavolta. Siamo rimasti in attesa 4 giorni prima di tentare il passaggio. Non c'era niente da mangiare, niente da bere, nemmeno un po' d'acqua. E poi abbiamo lasciato Istanbul e siamo venuti qui, senza mangiare nulla neanche oggi. Vedi tutti questi ragazzi con me, tutti amici miei. Eravamo tutti a Izmir, siamo un gruppo di 9 persone dai 19 ai 28 anni. Vedi quelle ragazze là? La ragazza bionda ha 18 anni e l'altra, la Mora, ne ha 19. Abbiamo lasciato l'Algeria perché non ci sono reali possibilità di farsi una vita. Ci sono uomini ricchi, uomini di potere, ma non c'è molto per noi giovani. Io ho un diploma superiore dell'istituto alberghiero. Ho lavorato per un anno. L'altro mio compagno di lavoro era un lavapiatti, ma era il figlio della sorella del capo del ristorante, del boss. Un bel giorno mi hanno licenziato per far lavorare lui al mio posto. Si sono sbarazzati di me così. Le cose non vanno bene in Algeria. Il mio sogno sarebbe di mettere radici una volta per tutte. Mi piacerebbe andare in Francia, a Parigi, dove ho 2 zii. Uno di loro ha 24 anni e io ne ho 26. Strano, no? Uno zio che è più giovane di te. Comunque sì, lui è a Parigi e studia. E quindi storie di migranti che si intrecciano in questo confine turco-greco che ogni anno vede passare 55.000 migranti. È la porta d'Europa, è la rotta preferita dai maghrebini, dagli algerini e dai tunisini, ad esempio, ma anche da alcuni africani, ma soprattutto afghani, pakistani e nepalesi. Ma le nazionalità che arrivano qui sono le più disparate. Nadando, però, muy hondo. Casi se ahoga una persona. Por ahí no puede pasar. E come sentite, persino un gruppo di dominicani, giovani uomini e giovani donne, con in mano una Bibbia fradicia stretta nelle mani, infreddoliti, la temperatura era di circa 0 gradi, hanno fatto un viaggio incredibile dalla Repubblica Dominicana fino in Somalia, poi lì facilmente un visto per Istanbul e da Istanbul a piedi fino a Izmir e poi fino all'Europa, passando il fiume. Ma perché si entra in Europa passando dalla Grecia? Me lo racconta un nepalese, Arsis Sapkota. In Nepal non c'è lavoro e abbiamo bisogno di denaro. A casa facevamo i cuochi, ma la paga era troppo bassa. Così siamo partiti. Non siamo sposati, non abbiamo lasciato nessuno. Abbiamo scelto la Grecia perché è molto più facile entrarvi illegalmente rispetto agli altri paesi europei. E così i migranti scelgono la Grecia, trovandosi poi imbottigliati nel paese che detiene la maglia nera di concessione del diritto d'asilo, circa lo 0,5% rispetto ai richiedenti. E poi, diciamolo chiaramente, attanagliata dalla crisi economica, cosa può fare la Grecia per i migranti? Sapkota diceva facile arrivare in Grecia. Certo, facile se hai $6.000 da spendere, come ci racconta quest'altro pakistano. I'm coming through agent, you know agent? Pakistani, I pay $6,000. $6,000. I start 3rd March and today you know what is date. I don't know what is date. (349) 238 6666, i vostri sms, gentili ascoltatori, la pagina Facebook Nessun Luogo Lontano - Radio 24, Nessun Luogo 24, potete cinguettarci su Twitter, Nessun Luogo @radio24.it per i vostri commenti e le vostre domande, così potete raggiungerci anche quest'oggi. Quest'oggi che parliamo di rotte dell'immigrazione, abbiamo capito che la porta d'Europa è definitivamente e irrimediabilmente, per il momento, la Grecia. Perché? Perché l'Italia ha chiuso oramai la rotta di Lampedusa, perché la Spagna ha chiuso da tempo la rotta delle Canarie e quindi si passa proprio da quel paese europeo che peggio se la vede nel contesto economico. Ed ecco che cosa deve fronteggiare, nelle parole di Georgios Salamancas, capo della polizia greca di Orestiada. Η μεταναστευτική πίεση υπάρχει και μάλιστα αυξανόμενη. Βλέπουμε. Il flusso di migranti continua e anzi è in aumento. La società greca non è in grado di sostenerlo. A febbraio, nella parte nord della prefettura di Orestiada, gli accessi irregolari sono stati più di 1600 e il numero è maggiore dell'anno scorso. In quest'area le condizioni meteorologiche sono state pessime. Neve, pioggia e molto freddo. Abbiamo salvato molta gente che era stata abbandonata nelle piccole isole in mezzo al fiume dai trafficanti. E abbiamo dato assistenza medica a chi ne aveva bisogno. I trafficanti cambiano strategia a seconda delle nostre azioni e dopo i numerosi arresti effettuati dalla polizia hanno cambiato tattica. Ora non passano più il fiume a bordo dei canotti o delle piccole barche in legno. Spingono lo scafo e lasciano fare ai migranti, restando sul territorio turco. E quindi si capisce come anche la macchina degli smugglers, dei trafficanti di uomini, si adatta e risponde a seconda delle contromosse messe in atto dalle polizie europee. Tra queste, siccome la Grecia non ce la fa a gestire questo flusso di migranti, è sceso in campo Frontex, l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere, così come aveva fatto sulle piccole isole di fronte alla costa turca già a partire dal 2009. E allora una notte ci siamo uniti a una pattuglia di Frontex composta da poliziotti bulgari e omologhi greci. My name is police officer Yankov, Yanko Yankov. I'm a operator TVV. Il mio nome è Yanko Yankov e sono l'operatore del TVV, un veicolo con visore termico. Noi osserviamo il confine greco-turco a caccia di trafficanti e gruppi di migranti. Una volta individuati, avvisiamo la polizia greca che fa quello che deve fare. Non so altro. In media, in questo periodo, avvistiamo un gruppo di migranti ogni notte. Ogni gruppo è composto di solito da 9 persone. Possiamo individuarli da una distanza di quasi 18 km da qui, quindi anche in territorio turco. Quanti sono i veicoli operativi dotati di telecamere termiche? Questa è un'informazione che non posso darvi. E a fronte degli sforzi della polizia c'è però anche una situazione sanitaria da dover gestire. Paola Fernandez è capo progetto a Evros di MSF, Medici Senza Frontiere. Al momento Medici Senza Frontiere è presente nella clinica di Poros dal 5 di marzo scorso, dal momento in cui il nuovo centro è stato aperto. Che cosa facciamo? Abbiamo uno spazio medico, abbiamo 4 tende, uno spazio per cucinare e uno spazio medico attrezzato dove poter fare una prima diagnosi. Abbiamo un team di medici presente 24 ore al giorno nel centro per migranti di Poros. Ogni volta che arrivano nuovi migranti fermati dalla polizia, i nostri medici li visitano per valutare le loro condizioni. Valutiamo se ci sono casi di minori. Valutiamo se le condizioni dei migranti sono gravi e necessitano di assistenza specializzata. In quel caso li portiamo a Feres o all'ospedale di Alexandropoli. Non posso dire esattamente la percentuale di minori che vediamo, però è vero che arrivano anche i giovanissimi, con un range che va da 16 a 18 o 19 anni. A volte invece bimbi di 6 mesi fino a un anno o 2 anni, che arrivano all'interno di un contesto familiare, a volte con la sola madre e altre volte con entrambi i genitori. Principalmente le condizioni sanitarie in cui arrivano sono quelle di persone che hanno compiuto un lungo viaggio, che hanno camminato molto, anche 2 mesi, spesso affamate, in ipotermia, dato che abbiamo avuto mesi di freddo intenso in questa regione, anche sotto zero. Abbiamo avuto casi di congelamento. Capita che non abbiano mangiato per 4 giorni o che non bevano acqua dal giorno prima del passaggio sull'Evros. Spesso sono anche completamente bagnati. E questa è Evros, la porta d'Europa, oramai da almeno un anno e mezzo a questa parte. Questa è la non nuova ma crescente rotta dell'immigrazione in Europa. Poi molti migranti transitano per l'Italia perché da Patrasso cercano di arrivare a Bari, ad Ancona, a Venezia, per poi arrivare in Francia e poi verso il nord Europa. E allora questo fenomeno che ha toccato l'Italia in maniera massiccia, lo ricordiamo tutti, la crisi di Lampedusa, ma continua a toccarlo. Facciamo il punto nel dettaglio, lo facciamo con Simona Moscarelli, esperto legale dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Dottoressa Moscarelli, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Allora, come possiamo fotografare la situazione italiana a livello... Partiamo dagli sbarchi. Quanti sono stati gli sbarchi negli ultimi mesi, nelle ultime settimane e soprattutto dove? Dunque, noi siamo presenti come Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in Puglia e in Sicilia. Posso dirle che in Sicilia fino a metà giugno sono sbarcati circa 3.337 persone. Attualmente possiamo dire circa 4.000 fino ad oggi, mentre in Puglia siamo un po' in un aumento perché fino ad oggi sono sbarcati dal 1 gennaio 2012 ovviamente circa 1.500 migranti. Ecco, la modalità dello sbarco, che tipo di imbarcazioni vengono utilizzate nel caso sia siciliano che pugliese? Continuano ad arrivare vecchi pescherecci oppure c'è qualche cambiamento? Dipende, in Sicilia dobbiamo distinguere gli sbarchi che arrivano dalla Libia e gli sbarchi che arrivano invece dalla Tunisia. I tunisini arrivano ancora con imbarcazioni abbastanza piccole, mentre dalla Libia con pescherecci più o meno piccoli. Invece in Puglia arrivano anche con piccoli yacht o con barche a vela, ovviamente stracolme di persone in condizioni di totale insicurezza. Ecco, come possiamo giudicare, valutare questa situazione, questa, fatte le dovute riserve, questa esiguità di sbarchi, certo comparati, voglio dire, con gli anni scorsi? Vuol dire che i controlli sono più ferri, vuol dire che la macchina dei trafficanti si è in qualche modo fermata? Certo, gli accordi italo-libici hanno dato una svolta in questo senso. Come possiamo giudicare questa fotografia? Dunque, per quanto riguarda la Sicilia, senz'altro gli sbarchi si sono fermati già a partire dalla fine dell'anno scorso. Si tratta comunque di un a quanto ci costa, e stando alle dichiarazioni dei migranti si parla di un pattugliamento svolto dalle autorità libiche lungo la costa libica, e quindi questo è il motivo, almeno secondo la nostra percezione, della riduzione del numero dei migranti. Per quanto invece riguarda gli sbarchi che arrivano in Puglia, c'è un leggero aumento rispetto all'anno scorso, probabilmente perché è la rotta che continua dalla Grecia e quindi che poi parte appunto verso l'Italia per poi raggiungere il nord Europa. Ecco, aggiungo per dovizia di particolari che vi sono stati casi nei mesi scorsi, che forse avete registrato anche voi, di partenze addirittura dalla costa turca, per cui, come spesso accade, le rotte si fanno sempre più lunghe, sempre più complicate. Più difficili, sì, più difficili, ma abbiamo avuto anche degli egiziani che sono sbarcati in Puglia, quindi si può dire che ci sono stati degli viaggi che sono partiti addirittura dall'Egitto. Ecco, abbiamo citato la Libia. So che la Libia per voi, come dire, è un punto cruciale, un punto nevralgico, così come l'è ovviamente Lampedusa. C'è una questione in sospeso che è Lampedusa porto sicuro, Lampedusa non porto sicuro. Ce la vuole spiegare, dottoressa Moscarelli? Sì, diciamo che subito dopo i disordini dell'anno scorso, il settembre 2011, il governo italiano dichiarò Lampedusa porto non sicuro, quindi non si poteva più portare migranti salvati in alto mare. Allo stesso tempo iniziarono comunque i pattugliamenti in maniera più efficace, se così si può dire, da parte delle autorità libiche, e quindi tutto questo ha portato sicuramente a una diminuzione del numero di arrivi. Noi insieme ad altre organizzazioni internazionali avevamo fatto un comunicato proprio per chiedere la revoca di questo di Lampedusa come porto non sicuro, perché riteniamo che il salvataggio delle persone sia da porre sempre al primo posto, e quindi che una comunque identificazione dei gruppi vulnerabili o di soggetti vulnerabili, come possono essere donne incinta piuttosto che minori non accompagnati o richiedenti asilo, vada fatto comunque sulla terraferma. E quindi per noi Lampedusa dovrebbe riaprire, l'abbiamo chiesto già appunto diversi mesi fa. È vero anche che in qualsiasi condizione, cioè la Guardia Costiera italiana anche nei mesi passati, pur in regime di Lampedusa porto non sicuro, è comunque andata a salvare diverse persone, diversi gruppi di migranti, li ha comunque portati a Lampedusa, perché quando ci sono delle condizioni particolarmente sfavorevoli o quando i migranti sono veramente a rischio della loro vita, comunque il governo italiano si attiva, insomma, per andare a rintracciare queste persone. Però è chiaro che tutto questo viene fatto in maniera, diciamo, più difficoltosa. Revocare il porto non sicuro potrebbe facilitare sicuramente le operazioni di salvataggio. Ecco, anche perché da Lampedusa ad Agrigento, se un'operazione dovesse essere condotta alla costa agrigentina, insomma, ci sono, se non erro, una decina d'ore di navigazione. Sì, sì, sì, e tra l'altro se una motovedetta è impegnata a portare delle persone da Lampedusa a Porto Empedocle, nel frattempo arriva un'altra imbarcazione di migranti, quella chiaramente è sprovvista di aiuto, anche perché poi i migranti non partono quasi mai singolarmente, quindi le imbarcazioni sono sempre più di una, e quindi è verosimile pensare che ci siano più imbarcazioni in difficoltà. Certo. Allora, grazie a Simona Moscarelli, esperto legale per l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Rotte dell'immigrazione, rotte che si chiudono, rotte che si aprono, porte dell'Europa, appunto, che nel caso greco si spalancano, nel caso di Lampedusa si è chiusa grazie anche a un accordo tra Italia e Libia, un accordo che era già stato stipulato dal precedente governo. Di questo ragioniamo adesso grazie al nostro nuovo ospite, il sottosegretario di Stato con delega alle materie relative all'immigrazione e all'esilio, che è il sottosegretario Saverio Ruperto. Buongiorno. Buon pomeriggio a tutti, buongiorno. Buongiorno signor sottosegretario. La prima domanda che le volevo fare deriva in qualche modo dalla conversazione avuta prima con l'esperta legale di OIM. Si parla di Lampedusa come porto sicuro, porto non sicuro. Voi avete intenzione di renderlo nuovamente porto sicuro e, come si diceva, in qualche modo facilitare eventuali operazioni di salvataggio? Ma guardi, questa è una qualificazione che è attribuita all'esito di una valutazione tecnica che non è di competenza del Ministero dell'Interno, ma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tant'è vero che viene decretata con una determinazione della Capitaneria di Porto. Quello che posso dire, per quanto mi riguarda, quindi per quanto è nelle mie competenze, è che Lampedusa oggi è diventato un centro, diciamo, di accoglienza, è stato ristrutturato, quindi, diciamo, un luogo, un'isola in cui il passaggio dei migranti deve avvenire in tempi brevi, nel senso che i migranti che dovessero sbarcare sull'isola sono accolti, rifocillati e sono ospitati all'interno di un CDA, di un centro di accoglienza che attualmente è stato ristrutturato per 250 posti, allo scopo poi di essere, all'esito di uno screening per valutare la situazione di ciascuno, sì, essere poi in tempi brevi trasferiti negli altri centri italiani. Ecco, sottosegretario, a parte, diciamo, la dichiarazione o meno di sicurezza del porto di Lampedusa, il punto focale resta la Libia, cioè il paese di partenza, anche se a ben vedere non è paese di partenza ma di transito anche quello. Gli accordi con il nuovo governo libico sono stati stipulati dal ministro Cancellieri lo scorso aprile. Possiamo in estrema sintesi dire che non cambia nulla rispetto agli accordi del precedente governo stipulati dal ministro Maroni, e questo ha creato molta preoccupazione in molte organizzazioni umanitarie. Ma guardi, allora, innanzitutto vorrei precisare che nel caso del ministro Cancellieri, quindi della sua visita del 3 aprile scorso, si è trattato di un processo verbale, per la precisione, quindi non è un accordo internazionale nel senso proprio della parola, ma un processo verbale con il quale in sostanza si manifestano degli intenti da parte degli esponenti dei due paesi. E questo processo verbale, appunto, ha manifestato questa intenzione di rafforzare la collaborazione tra i due paesi, soprattutto direi incentrando l'accordo su un rafforzamento della cooperazione in loco, perché questo è un po' l'obiettivo che tutti quanti ci riproponiamo, cioè di in sostanza fornire a questi paesi, in particolare alla Libia nel caso di specie, un ausilio affinché il fenomeno migratorio possa essere controllato, scongiurando il più possibile i rischi per la salute, per la vita dei migranti e anche contrastando l'immigrazione irregolare. Ecco, fra gli accordi che state prendendo c'è ad esempio quello dell'addestramento delle forze libiche. Sì, c'è anche questo, fra le varie cose c'è non ci sono, così come i centri di accoglienza, quindi il riavvio e la ristrutturazione dei centri di accoglienza in loco, anche l'addestramento delle forze di polizia, per esempio sulla capacità di riconoscere i documenti falsi e sulla la disponibilità di mezzi idonei poi a contrastare il fenomeno della migrazione irregolare. Ecco, sottosegretario, le ultime informazioni che arrivano dai migranti che poi sono usciti a sbarcare parlano di un blocco da parte delle autorità libiche proprio alla partenza. Alcune organizzazioni internazionali puntano il dito su questi accordi, hanno molta paura di rivedere quelli che furono alcuni respingimenti sui quali poi anche la Corte dei diritti umani di Strasburgo si è pronunciata, ovviamente puntando il dito. Lei esclude attività di questo tipo in futuro? Ma guardi, l'Italia, appunto nella persona del ministro Cancellieri che la rappresentava, ha tenuto molto affinché nell'accordo fosse espressamente dichiarato il nuovo corso libico, quindi un paese basato sulla democrazia e sul rispetto soprattutto dei diritti umani, perché questo è il punto. C'è stata una dichiarazione esplicita che poi è stata anche trasfusa all'interno dell'accordo affinché la collaborazione dei due paesi abbia però dei fondamenti di principio comuni, quale appunto quello innanzitutto il rispetto dei diritti umani, quindi su questa base direi che poi si potrà prospettare un futuro più in sintonia tra i due paesi, proprio perché i principi diventano dei principi comuni. Ecco, adesso arriviamo ai principi, quindi esclude nella maniera più categorica appunto che potremo vedere episodi come quelli del 2009. Io lo escludo, nel senso che così non dovrà essere, non sono ovviamente in grado di prevedere il futuro, però l'intento è questo e quindi noi possiamo dare dei fondamenti anche giuridici, no, affinché poi gli scopi siano realizzati, e questo abbiamo fatto appunto attraverso l'assunzione di espliciti accordi e provvedimenti, nel senso, ecco, appunto che ho indicato. Allora, nella speranza che appunto non avvengano più episodi come quello di respingimenti collettivi senza che si valuti i singoli migranti se hanno bisogno di protezione, tocchiamo il punto più delicato, il fatto che la Libia è un paese che non ha ratificato la Convenzione del 51 sullo stato di rifugiato politico, e quindi è un paese che ci si chiede come fa la Libia a garantire sicurezza a migranti, ad esempio eritrei o somali, che necessitano di protezione umanitaria e finiscono ad esempio a Kufra, che nei mesi scorsi, negli anni scorsi, era tristemente nota per essere una prigione e non un centro di accoglienza. Noi, la Libia è uno Stato sovrano e quindi se non ha aderito alla Convenzione di Ginevra, questo ovviamente non può essere in qualche modo oggetto di condizionamento nei rapporti. L'Italia può spendere la propria opera e i propri uffici affinché tutti i paesi con i quali ha rapporti si adeguino alle convenzioni internazionali di base. E quello però che a mio avviso conta di più è che poi nella sostanza trovino gli strumenti affinché il rispetto dei diritti e quindi la condizione poi dei migranti sia rispettata fino in fondo. Questo è l'auspicio che noi abbiamo fatto nostro, e tutto quello che viene esercitato e portato avanti è sempre su questa linea, però rispettando ovviamente il principio della sovranità di ciascun paese. Certo, però in questo senso voi non state facendo pressioni sul nuovo governo libico a che ratifichi la convenzione? Non mi risulta che ci siano delle pressioni, come lei le definisce, orientate in questo senso. Può essere anche che ci siano, io di questo con il ministro non ho parlato e quindi non ne sono al corrente. Sicuramente al di là della ratifica dell'accordo in sé, quindi al di là del profilo strettamente giuridico di diritto internazionale, quello che si fa è di portare avanti un'opera comune che appunto è fondata, come ho detto, sul rispetto di questi principi generali. Un'altra domanda che volevo farle è questa: negli anni passati il flusso dei migranti è stata una formidabile leva politica utilizzata da Gheddafi e dal governo libico non più in carica. Lei vede ancora questo timore? La rete degli smuggler, dei trafficanti è ancora lì, attiva e pronta a ripartire. Non vede all'orizzonte il timore, la paura che in qualche modo qualcuno potrebbe aprire il rubinetto per chiedere altro all'Europa e nella fattispecie all'Italia? Noi dobbiamo, a mio avviso, analizzare la questione allo stato dei fatti. La Libia ha compiuto un percorso in quest'ultimo periodo che ormai data più di un anno, un percorso verso la democrazia. Si tratta di percorsi che non sono semplici, agevoli, che comunque necessitano di un po' di tempo. E ritengo che sia necessario dare fiducia e sostenere questi percorsi democratici e che poi quindi arrivino a una sintonia comune anche con un paese invece come il nostro. È chiaro che tutto questo non può essere imposto dal di fuori e io non ho nessuna ragione che mi induce a pensare il contrario, cioè che ci siano in realtà degli intenti diversi e di strumentalizzazione, così come forse in passato avveniva, ma ovviamente faccio riferimento a un passato rispetto al quale non mi pronuncio perché non ero all'epoca titolare di alcuna carica istituzionale. A oggi posso dire che non ci sono segnali nel senso che lei ha indicato. Grazie. Allora al sottosegretario Ruperto, buona giornata, buon lavoro, grazie per essere stato buona con noi. Buona giornata a lei, a presto. E allora adesso abbiamo il tempo, sì, di girare il mappamondo. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. E in realtà non c'è bisogno di andare tanto dall'altro lato del mondo perché stiamo nel Regno Unito, stiamo sempre a Londra o molto vicino e andiamo a Belfast dove, lo riporta anche il Guardian in prima pagina quest'oggi, una dichiarazione congiunta di due gruppi repubblicani armati, le costole dell'IRA, che non hanno mai accettato gli accordi di pace, hanno detto beh ci uniamo e il nostro nemico comune è Stormont. Il Parlamento appunto dell'Irlanda del Nord, dichiarazione che arriva proprio durante lo svolgimento dei giochi olimpici, quindi come dire, si potrebbe dire sono in cerca di visibilità, ma comunque l'intelligence britannica già in massima allerta per lo svolgimento delle Olimpiadi sicuramente non sta dormendo sonni tranquilli. Si parla di alcune centinaia di membri armati con un'ottima conoscenza della fabbricazione di esplosivo. Si parla di Real IRA e si parla di quest'altra formazione repubblicana Against Drugs, che è stata molto attiva nella città di Derry negli ultimi mesi con svariati attentati e con la missione di ripulire le città nordirlandesi dallo spaccio di droga. Vedremo come evolverà questa nuova alleanza repubblicana. Adesso i titoli di coda. Per ricordarvi che questa puntata è stata confezionata da me con Mire Lucchetti e Massimo Brugnone, a dargli ritmo e musica è stato Roberto Scaltriti. Vi ricordo le coordinate, la mail nessunluogo@radio24.it, gli sms 349-238-6666, su Facebook nessunluogolontano-radio24, Twitter nessunluogo24 per porre commenti, suggerimenti e suggestioni. Noi ci risentiamo domani, puntuali 13:15. Un saluto da Giampaolo Musumeci.